ancora tutti concentrati là sul coronavirus, a partire dai presidenti di regione leghisti che chiedono di lasciare a casa da scuola bambini e ragazzini appena tornati dalla Cina, mentre si inizia a fare la conta dei danni economici e degli effetti delle notizie false che circolano ovunque. Pechino attacca gli Stati Uniti, intanto accusando Washington di aver alimentato il panico, ma a Washington lo sguardo è altrove. È puntato sull'Iowa, dove sono attesi a breve i risultati dei caucus, primo passo dei democratici per la corsa alle presidenziali. Dall'altra parte dell'Atlantico, Boris Johnson ha tenuto il suo primo discorso in vista del negoziato su Brexit. Un discorso duro, come prevedibile, nel quale ha prospettato per il suo paese un futuro radioso in un mondo di libero scambio. Di cosa si parla di discute? Insomma, quasi ovunque del coronavirus e un po' di Sanremo, che da stasera prende il via. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Alle 6, 31 minuti e 25 secondi, dunque iniziamo di questo martedì 4 febbraio con Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza e in redazione e ovviamente con voi che mi potete raggiungere al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio. Mi piace sentire la vostra voce, lo sapete, via via, mandate, fatela sentire. Qualsiasi argomento, non necessariamente su quelli di attualità, di stretta attualità. Siamo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook, come sempre ci trovate su Twitter, su Instagram. E per Instagram, come sempre, vi chiedo di mandare una foto della vostra mattina, del vostro risveglio, di quello che vedete dalle vostre finestre, dai vostri finestrini, dalla strada nella quale state camminando, dal bar nel quale siete a mangiare cornetto e cappuccino. Il racconto collettivo, degli ascoltatori di Radio 24 la mattina. Dunque, ancora questo coronavirus in primo piano, come si diceva, gli effetti economici, tra un attimo ci arriveremo e guarderemo un po' al nostro, agli effetti che ha sul turismo in Italia. Intanto si diffondono informazioni di qualsiasi tipo. Vi pesco dal Quotidiano Nazionale a pagina 5, che ci dà un'idea delle cose incredibili che stanno circolando ormai in queste ore. Che il consumo di aglio protegge dal coronavirus. Che l'olio di sesamo sulle mani è uno scudo dal coronavirus. Che utilizzare sulla pelle o sotto il naso disinfettanti aggressivi, chissà che cosa vuol dire poi per aggressivi, magari rischi anche di bruciarti, ferma il morbo. Le telefonate al ministero, racconta il Corriere della Sera a pagina 6. Ho un serpente in casa, rischio? Dipende dal serpente, mi viene da dire. Insomma, se è un cobra, sì, qualcosa lo rischia. Va bene, si fa per dire. Tanto che l'OMS sta mettendo su una task force anti-fake news. Molte informazioni trovate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Sappiate comunque, per rimanere sempre alle domande che arrivano al Ministero, che se comprate una maglietta made in China, no, non rischiate di base. E nemmeno se ricevete un pacco dalla Cina. No, tranquilli, ok? Siamo sereni su quello. Allora. Francesca Sforza della Stampa, ciao Francesca, buongiorno, come stai? Buongiorno a voi, tutto bene, grazie. Bene, ottimo. Mentre invece ho visto che voi oggi più che altro vi concentrate sulla stampa, sul resto della psicosi, no? Ieri addirittura una sassaiola contro un gruppo di studenti cinesi a Frosinone, con le pagine dei quotidiani e ovviamente anche GR24, avete sentito, sono un po' dominate da questa storia dei presidenti di regione leghisti che dicono, insomma, vogliono impedire l'accesso alle scuole, mettere in quarantena in sostanza i bambini e gli studenti, insomma, che sono tornati dalla Cina. Oh, forse su questo abbiamo la voce del capo dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro. Ce l'abbiamo da qualche parte, Carmelo Lauricella. Andiamo a pescarlo. Eccolo, perché ieri a TG2 Post su questa specifica questione ha dato il seguente chiarimento. I problemi in questo caso non sono gli studenti cinesi, ma sono gli studenti che provengono dalle aree a rischio dove le persone sono state esposte. Questo è un tema che è oggetto di discussione. Certamente se provengono da zone quarantenate teoricamente non dovrebbero neanche essere a scuola, però questo è l'elemento eventualmente da approfondire. Si tratta di definire poi il livello di esposizione che hanno le persone rispetto al rischio che corrono. Oh sì, ci ricorda un ascoltatore anche che la soluzione di Ignazio La Russa, che ieri è circolata parecchio sui social, dice: non stringetevi la mano, fate il saluto romano per evitare contatti. Vabbè ragazzi, siamo un po' al delirio, anche se la cosa, cara Francesca, è seria per tanti motivi, ovviamente per le vittime che ci sono in Cina. Siamo oltre le 300, oltre le 350, si è superato il numero delle vittime della SARS, è un contagio a quanto pare abbastanza rapido, la mortalità, lo ricordiamo ancora una volta, è piuttosto bassa, e l'impatto, diciamo così, di quel tipo e l'impatto è di paura, quello che abbiamo raccontato, e che poi ha un riflesso sull'economia, no? Mi sembra che l'attenzione si stia piano piano concentrando su questo. Sì, direi che più passa il tempo e più la questione diventa una questione politica, perché abbiamo assistito a una scelta molto drastica, quella del governo, dello stop dei voli, a cui mi sembra che si sia in questo momento, già da ieri sera, con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si stia cercando di fare un pochino marcia indietro, perché obiettivamente l'impatto è gigantesco e, diciamolo, probabilmente non è stato oculatamente valutato. A mio avviso, compatibilmente con l'allarme che si è creato e anche con il fatto che dalla Cina non sono arrivate delle informazioni chiare che hanno contribuito sicuramente ad aumentare il panico, abbiamo preso una, diciamo, Sonderweg, una via particolare che, come al solito, insomma, se è particolare, chiediamoci perché. In questi casi io trovo che non sia sbagliato seguire le indicazioni dell'Unione Europea, cioè siamo 27 anche per quello, per muoverci in delle cose in modo un pochino unitario. Stavolta noi ci siamo mossi da soli in una situazione obiettivamente in cui non eravamo più colpiti di altri paesi. Ci sono stati analoghi. Ma ti riferisci Francesca alla chiusura dei voli dalla Cina, no? Mi riferisco alla chiusura drastica dei voli dalla Cina, che non ha fatto praticamente nessuno, eccetto forse gli Stati Uniti. Esattamente, ma parliamo di due economie un pochino diverse, no? Allora, e anche di due sistemi paesi un pochino diversi, con minori dipendenze. Io trovo, oltretutto, voglio dire, un pochino anche in contraddizione con la linea, cioè siamo gli unici che abbiamo fatto un memorandum sulla Via della Seta e siamo gli unici che in qualche modo prendiamo la decisione più drastica rispetto ai cinesi in un clima che teoricamente dovrebbe essere un pochino di partnership privilegiata. Personalmente mi sembra un po' esagerato. Sì, tant'è vero, ma che comunque lo è, perché tant'è che facciamo martedì. Prego. Questa è la realtà. No, dicevo, Francesca, tant'è vero che nelle ore scorse, no, c'era qualche retroscena che arrivava dalla Cina che diceva: sì, insomma, va bene, con gli Stati Uniti ce l'abbiamo perché sono quelli che hanno scatenato il panico, ma con quelli c'è una guerra commerciale sotto traccia. Però quest'Italia che blocca i voli mica ci piace tanto, ma insomma, certo, no? Un po' segnalare a quello. Ci scrive un ascoltatore, Andrea, dice: vi rendete conto che siamo l'unico paese occidentale in totale paranoia? Non so se siamo l'unico paese occidentale in totale paranoia, insomma, però un pochino sì, dice, perché l'informazione pompa i supposti rischi scatenando un allarme ingiustificato. Beh, guarda, io le posso dire che qua, come sa, abbiamo cercato di fare l'informazione più corretta possibile, anche tranquillizzando molto sugli stessi effetti di questo coronavirus. Di certo, che ci sia notizia nel momento nel quale la Cina isola completamente alcune zone del paese, tra l'altro notizia di questa mattina che sono state isolate altre zone nelle quali tra l'altro il quartier generale Ali, il grande colosso del commercio elettronico Alibaba, insomma questo è un fatto, insomma, quindi che la notizia ci sia, che questo coronavirus abbia una dimensione globale e che la questione abbia una dimensione globale, non c'è il minimo dubbio. Per così dire, forse un po' oggettivamente abbiamo ceduto alla paranoia. Nel frattempo sono tornati gli italiani, una parte degli italiani che si trovavano a Wuhan, e ieri ospite di Quarta Repubblica, di Nicola Porro, una delle persone che si trovano là all'ospedale militare della Cecchignola, Michel Talignani, racconta così la quarantena. Quarantena per me qua vuol dire che devo stare in questa struttura per 14 giorni. Non sono isolato nella stanza, quindi posso uscire dalla stanza, posso uscire anche utilizzare, andare nelle parti comuni che ci sono, chiaramente mantenendo la mascherina e i guanti, ma non sono confinato all'interno della stanza. Ci ricorda qualche ascoltatore rispetto a quello che dicevamo prima, che molte compagnie aeree hanno fermato i voli diretti per la Cina. È vero, stiamo parlando di una cosa diversa in questo caso, di uno Stato che decide di bloccare tutti i voli diretti verso la Cina. Sono due cose diverse, cioè una è una decisione di una compagnia privata e l'altra è una decisione di uno Stato. Poi che lo Stato possa fare moral suasion per fermare i voli diretti verso la Cina nei confronti delle compagnie aeree, per così dire, ci può anche stare naturalmente, però dal punto di vista diplomatico, strettamente diplomatico e di rapporti con la Cina, è chiaro che è una cosa diversa. Ancora Talignani, che racconta un po' di com'è Wuhan, questo epicentro del coronavirus, in queste ore. Sì, la città era completamente deserta, tutte le attività commerciali erano chiuse. Ma lei poteva uscire per comprarsi da mangiare in Cina? Poteva liberamente andare in un... Sì, no, non c'era un divieto vero e proprio di uscire dalle abitazioni, era fortemente sconsigliato, ma non c'era nessun divieto. Insomma, nessun divieto di girare, questo è un po' il racconto di Wuhan, una città deserta. Altre questioni sul piatto, poi ritorniamo sul coronavirus, ed è... Cara Francesca, una questione più politica. Queste tensioni che tornano ad attraversare la maggioranza sulla prescrizione e con il Partito Democratico, che, bisogna dire la verità, in questo momento sembra proprio che non saper che cosa fare in merito a questa riforma della prescrizione, tanto che Zingaretti ributta la palla nel campo del Presidente del Consiglio. Una parola mitologica questa, faccia la sintesi. Abbiamo chiesto al Presidente Conte a questo punto di produrre una sintesi, che io credo che sia giusto, anche perché gli italiani ci guardano e noi vogliamo un governo che produca fatti, e credo che invece le continue polemiche creano solo danni e rafforzano le destre. Cara Francesca, faccia la sintesi, però senza dire esattamente dove deve andare questa sintesi. Sono un po' meglio lasciare che sia il Premier a tirarci fuori. Esatto, dalle secche. No? Dalle secche, perché un pochino nelle secche ci si è infilati. Ora, mi sembra che appunto le strade di Renzi e di Di Maio si incrocino per ragioni opposte. Il PD è in questa fase probabilmente impegnato a non perdere il capitale elettorale dell'Emilia Romagna, e quindi non vuole creare fratture all'interno del governo, un governo che probabilmente non cadrà, perché non c'è l'interesse perché cada, né da parte del PD né da parte dei 5 Stelle, ma certo bisogna evitare una spaccatura, come dire, plateale sulle cose, che sono quelle invece che dovrebbero tenere insieme un governo. Per cui mi sembra che adesso a questo punto Conte oggi abbia davvero due grossi problemi. Primo, come dicevamo, fare marcia indietro da questa decisione drastica dei voli da via Cina, probabilmente con il sistema della task force. Il secondo, quello di dire una parola, come dire, terza ma definitiva sulla questione della prescrizione. Una giornata difficile per il nostro presidente. Decisamente. Traffico. Mattino. We have the opportunity. We have the newly recaptured powers. We know where we want to go. And that is out into the world. And today. Il posto dove vogliamo andare, eh? Sappiamo dove vogliamo andare ed è là fuori nel mondo, eh? Un po' di retorica ma efficace, devo dire la verità, quella di Boris Johnson, comunque si giudichi la Brexit, nel suo discorso ieri, nel quale, diciamo, in quello che è un po' il giorno di avvio dei negoziati veri e propri, per quanto a distanza, con Barnier, il capo negoziatore europeo, che ha parlato da una parte e lui dall'altra, con quest'idea di gettarsi in questo mondo, cara Francesca, del libero scambio, così ha detto Johnson, poi mettendoci in mezzo una mezza gaffe, quindi evocando dazi nei confronti delle macchine italiane, dei vini francesi, eccetera eccetera, e però questa più o meno è l'idea, insomma i prossimi 11 mesi saranno quelli decisivi, eh. Sì, diciamo che Brexit resta una delle cose più interessanti di quest'epoca. E sarà interessante, a me l'impressione che ho in questa fase è che per la prima volta l'Unione Europea è davvero unita e forte, nello specifico tutti tranne la Gran Bretagna, nel trattare su Brexit, come se attraverso la definizione dell'accordo, che poi insomma sarà frutto ovviamente di un compromesso perché tutti hanno interessi ma anche diversi, si stia però rinsaldando lo spirito comunitario. Forse Brexit sarà davvero il primo episodio reale di intesa, di unità politica all'interno dell'Unione Europea, e non è detto che crei, come dire, un effetto virtuoso anche per il futuro, visto che le decisioni da prendere in comune saranno tante. Sì, perché sta prevalendo, no, quest'idea della fermezza europea. Amici miei, uscite, va bene, ok, ormai avete deciso, ve ne volete andare, avete pure votato alle elezioni politiche per quello più fortemente a favore di Brexit, e però vi beccate tutte le conseguenze. Non puoi fare un accordo con noi che ti lasci uguale a noi, evidentemente. Un po' questa la linea. Sì, una linea molto chiara, quella definita da Barnier, e a mio avviso che appunto rinsalderà proprio l'esprit comunitario, lo spirito comunitario. Vedremo poi che cosa significherà praticamente per la Gran Bretagna. Io non sono, diciamo, molto ottimista sul fatto che riusciranno da subito a ingranare un sistema di commerci così, di massimo interesse per loro, anche perché comunque ci sarà qualcosa da pagare. Ognuno degli accordi commerciali fatti andranno rivisti e ci sarà per la recessione comunque una clausola, come per i divorzi, no? Eh sì. Fatemi andare, andiamo su anche ogni tanto qualcosa di più leggero. Consentiteci questa settimana di essere un po' nazional popolari, eh? Allora, la nostra Marta Cagnola, sentirete le sue cronache in GR24, e noi le abbiamo chiesto alla nostra inviata a Sanremo di farci invece un piccolo diario, magari su qualcosa di laterale, che tanto poi le grandi storie di Sanremo, se le volete sentire, le sentirete ovviamente in GR24, le leggerete un po' dappertutto, e insomma partiamo da questa sorta di commissariamento di Amadeus, cioè, dopo quelle gaffe fatte in conferenza stampa eccetera eccetera, arriva il salvatore della patria, Fiorello, sentiamo. Caro Simone, tu ti svegli molto presto, ma prima di te si sveglia Fiorello, che probabilmente a quest'ora ha già bussato alla porta della stanza di Amadeus, che è accanto alla sua. Pare che Amadeus sia un gaffer di professione, quindi Fiorello, che lo conosce da molti anni, ha minacciato di portare una bacchetta per punzecchiarlo ogni volta che dice una sciocchezza. Per ora lo ha solo salvato in conferenza stampa con un monologo a sorpresa ieri di 17 minuti alla prima domanda scomoda, ma questa sera sul palco credo non potrà fare la stessa cosa. Per fortuna, almeno Junior Kelly non canterà subito, ma solo domani. Ieri sera Junior Kelly prima ha registrato la sfilata sul red carpet, ha stretto la mano a tutte le signore anziane lungo le transenne. Poi ha giocato calcetto contro un gruppo di giornalisti appena fuori Sanremo. Ha segnato 6 gol, ovviamente, ha giocato senza maschera. Oggi la giornata del festival invece inizia a mezzogiorno con un'ennesima conferenza stampa e chissà, magari con un'altra polemica. Chissà, probabile. Va bene, torniamo alle grandi cose, alle cose importanti di questa giornata e lo facciamo con Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi. Buongiorno Nucara, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, il tema naturalmente è l'impatto del coronavirus su di voi, sul settore turistico. Tra l'altro già se ne è parlato ieri in Focus Economia con Federturismo, andatevi ad ascoltare il podcast. Beh, ci concentriamo adesso nello specifico sulla situazione degli alberghi, perché i segnali che state ricevendo nell'anno che doveva essere l'anno dell'interscambio Italia-Cina, no? Se non vado errato, beh, sono segnali pessimi. Sì, l'impatto sarà importante. Il mercato cinese è un mercato significativo, non è il primo mercato per l'Italia, va detto, ma pesa ogni anno 5 milioni e 300 mila presenze all'ultima statistica ufficiale, che nel 2018 possiamo stimare che quest'anno si sarebbero passati tranquillamente i 6 milioni di presenze. Stiamo parlando di 6 milioni di notti dormite negli alberghi, per intenderci. Sì. Questo blocco inevitabilmente determinerà una frenata. Vi basti considerare che le presenze di febbraio sono circa 414.000, sempre a statistiche ufficiali. Se gli aeroporti sono chiusi, siccome a nuoto, come è noto, dalla Cina non si arriva, probabilmente avremo dei numeri molto approssimati allo zero. Molto vicini allo zero, quindi almeno 400.000 presenze in meno. Avete una stima di massima su quanto vi può costare nel complesso, Nucara? La Banca d'Italia stima che un turista cinese spenda circa 150 euro al giorno in Italia. Secondo me è una stima prudente, molto prudente, probabilmente limitata alla spesa diretta di tipo turistico. Vi do un dato: la scorsa settimana il sindaco di Milano stimava che per il mese di febbraio Milano subirà un contraccolpo di circa 300 milioni di euro nel solo mese di febbraio. Quando abbiamo parlato con i colleghi che hanno fatto la stima per cercare di capire meglio come era costruito il dato, ci hanno ricordato che ci sono turisti che spendono fino a 2.000 euro al giorno, turisti cinesi, perché non bisogna pensare solo alla spesa diretta, quindi all'albergo, al ristorante, al viaggio, ma poi c'è tutta la componente importantissima che è quella dello shopping. Una quota consistente di turisti cinesi vengono in Italia con l'obiettivo prioritario di comprare italiano. E anche quello sarà un settore che soffrirà molto gli effetti di questa chiusura dei mercati. Quante cancellazioni, Nucara, quante cancellazioni avete già avuto? Non c'è una misurazione ufficiale al momento, ma come vi dicevo, con gli aeroporti chiusi è da attendersi che le prenotazioni del mese di febbraio siano destinate quasi ad annullarsi. Erano state più di 400.000 nel 2018. Quindi almeno 400.000, diciamo, come idea. Con, immagino, alcune città più colpite. Penso per esempio al fatto che tra poco c'è il Carnevale a Venezia e quella è una meta tradizionale, immagino, per i turisti cinesi. Sì, Roma, Milano, Firenze e Venezia sono le principali destinazioni del mercato cinese. Roma in capo a tutti, seguono Milano, Firenze e Venezia. È naturale che sia così, perché il turismo di prima generazione, chiamiamolo in questo modo, si orienta verso le mete più famose e più prestigiose. Man mano che il turismo cresce, che i flussi crescono, i flussi pian piano si spandono verso le altre destinazioni. Se calcoliamo che in 10 anni eravamo passati da 1 milione di presenze a 5 milioni di presenze, capite bene come ci sia un lento, progressivo e molto importante allargarsi del mercato, che è più grande mercato del mondo, più di 1 miliardo di abitanti, vi ricordo, in Cina. E quindi, anche se, come dicevo, non è il primo mercato per l'Italia in questo momento, i primi sono i tedeschi, poi gli americani, a seguire gli inglesi, ma in prospettiva sarà sicuramente il mercato del futuro. Sì. Allora, grazie ad Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi, per questo aggiornamento, e grazie anche a Francesca Sforza della Stampa, che ritroveremo nei prossimi giorni. Abbiamo ancora un paio di minuti nei quali mi interessa farvi sentire 2 o 3 cose, dossier concreti, al di là del coronavirus, dell'impatto economico del quale stiamo parlando, ne torneremo a parlare in rassegna stampa, ci sono degli spunti molto interessanti anche al Sole 24 Ore di oggi. I dossier economici sul tavolo del governo, Ilva, all'Italia, insomma, siamo ancora là fermi, così come siamo fermi o quantomeno siamo in fase di discussione su, per esempio, le pensioni e quota 100. Ieri il ministro Gualtieri, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, intervistato, parla proprio di quota 100, insomma, in fase di discussione, non una revisione di tutto questo. Perché? Perché quota 100 fatta così, dice Gualtieri, non va bene. Quota 100 è stato un utilizzo che ha concentrato moltissime risorse su una platea molto ristretta di persone, e quindi naturalmente col senno di poi, tornando indietro nel tempo, non è stata una misura, insomma, equilibrata, perché ha messo tantissimi soldi per una platea molto ristretta senza risolvere problemi per tantissime persone. Ci sono i giovani, le donne, tutte le persone, perché poi quota 100 bisogna sapere che scade a un certo punto, finisce. Quindi è stato fatto una cosa molto costosa che poi finisce e ci si troverà con un grande scalone. Ed è qua che bisogna mettere le mani. Ci scrive un ascoltatore, la TAV dove è finita? Credo che i lavori stiano proseguendo. Comunque mi informerò e le farò sapere, non essendo là, non essendo a Chiomonte. La rassegna stampa tra poco, intanto GR24. Se ci volete dire la vostra, su quest'idea dei governatori leghisti di chiudere le scuole, di mettere in quarantena i bambini, gli studenti cinesi, 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, la vostra voce, dai, a tra poco.